Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Per molti aspetti infausto quel pomeriggio del dicembre 2010, quando la FIFA, presieduta da Sepp Blatter, assegnò nel giro di pochi minuti prima il Mondiale di Calcio 2018 alla Russia, poi quello del 2022 al Qatar, nuovo Eldorado del football mondiale. Doppia assegnazione che oggi è al centro del FIFA Gate, che ha travolto il governo del calcio planetario e che ha anche stravolto i calendari, visto che i mondiali qatarioti si svolgeranno in pieno inverno, con la finale programmata il 18 dicembre. Insomma, prepariamoci a giocare a Subuteo sul prato del presepio. Ma il mondiale del Qatar 2022 sta già creando altre e ben più gravi preoccupazioni. L'International Trade Union Confederation ha stimato che prima del calcio d'inizio dei mondiali potrebbero essere 4.000 le vittime di incidenti sul lavoro in Qatar. E già ora i morti tra le manovalanze impiegate nei diversi cantieri sarebbero alcune centinaia. Ne parliamo oggi con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che nei giorni scorsi ha lanciato un allarme internazionale sulla marcia d'avvicinamento al mondiale qatariota. Dottor Nuri, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buongiorno. Ecco, qual è la situazione attuale a Doha e dintorni? È uno stato drammatico in primo luogo, perché la situazione delle condizioni di lavoro dei migranti impiegati nella costruzione degli impianti e delle infrastrutture sportive per Qatar 2022 l'abbiamo denunciata da tempo insieme a altre organizzazioni per i diritti umani, e il Qatar non ha dato retta alle richieste di riformare in maniera significativa il sistema del lavoro. La FIFA è stata molto molto blanda nel premere affinché questa situazione cambiasse, e quindi a 5 anni dalla data in cui vennero assegnati i mondiali di calcio al Qatar, con 7 anni ancora davanti, noi ci troviamo in una situazione nella quale i diritti dei lavoratori migranti non sono minimamente tutelati, in cui ci sono state già centinaia di morti in questi anni per cause legate alle condizioni di lavoro, e non si vedono all'orizzonte riforme significative. C'è piuttosto una macchina di pubbliche relazioni che tende a confortare la FIFA che si sta facendo qualcosa di importante e a far capire al mondo che le cose devono andare avanti. E, tra l'altro, il fatto che la FIFA abbia spostato il periodo di svolgimento, oltre a rivoluzionare i calendari, che è un fatto già importante dal punto di vista sportivo, la dice lunga su quanto la FIFA sia accomodante nei confronti della famiglia al potere. E tutto questo, però, a tutto questo non corrispondono miglioramenti nel campo dei diritti umani. Quali sono le violazioni che Amnesty ha riscontrato nei cantieri di Qatar 2022? Intanto le condizioni di lavoro, che sono assurde. Si lavora senza sosta, senza turni di lavoro per molte ore consecutive al giorno, spesso senza giorni di riposo, in condizioni climatiche estreme con temperature anche elevatissime. Gli alloggi sono completamente inadeguati, sono dei tuguri in cui si ammassano decine di persone, con scarsa acqua corrente e con un accesso alle cure mediche molto limitato. E poi c'è la questione delle paghe, che non è affatto secondaria per persone dalla cui attività all'estero dipende il mantenimento di un'intera famiglia in patria. Paghe ritardate, paghe mai date. Chi protesta rischia anche sul piano non solo delle ripercussioni fisiche, ma anche sul piano penale. E questo si deve in fondo a un sistema che è il sistema della kafala o dello sponsor, per cui il lavoratore, una volta che entra in Qatar, diventa una sorta di proprietà privata del datore di lavoro, che gli sequestra i documenti e lo vincola a sé, a tal punto che per cambiare lavoro, per lasciare il paese, deve chiedere l'autorizzazione del datore di lavoro. Se non lo fa, se cioè si allontana dal lavoro, diventa la stregua di un migrante irregolare, dunque una persona entrata illegalmente nel paese, con il rischio ovviamente di arresto. Beh, di fatto non mi sembra sbagliato parlare di lavoratori schiavi, un fenomeno d'altra parte molto esteso, vero? Il fenomeno, oltre a interessare naturalmente i diretti lavoratori coinvolti, riguarda naturalmente le imprese, tutto il giro, come dire, del business che è all'interno del sistema che ruota intorno all'organizzazione dei mondiali di di calcio. Tra l'altro nel 2016 Amnesty International punterà proprio l'indice sulle società di costruzione, società molte delle quali sono delle multinazionali occidentali con sede in Europa o negli Stati Uniti, per chiedere loro da che parte stanno, se stanno dalla parte dei mondiali costruiti col sangue, il sudore e le lacrime dei migranti o stanno dalla parte di un sistema che vuole rispettare almeno delle condizioni minime di lavoro. Dottor Nuri, da dove arrivano questi lavoratori a bassissimo costo? Sono fondamentalmente asiatici, in gran parte asiatici, alcuni vengono dall'Africa, però fondamentalmente il subcontinente indiano, quello maggiormente interessato, dunque vengono dall'India, dal Nepal e poi anche da Pakistan, Bangladesh, Filippine e altri paesi ancora dell'Asia. E il paradosso è che a volte neanche i governi di questi paesi intervengono con forza, perché sono paesi non deboli dal punto di vista diplomatico, paesi in via di sviluppo, esclusa l'India, che hanno magari bisogno sia delle rimesse dei migranti ma soprattutto dei contributi dei paesi donatori. Il Qatar in questo schema ha un ruolo purtroppo molto importante, dico purtroppo perché poi questo significa ridurre il potere negoziale dei governi dei paesi da cui prendono i migranti nel chiedere rispetto dei diritti umani in Qatar. Accennavamo al ruolo della FIFA. Finora che risposta avete avuto? Siamo delusi per il momento dal comportamento della FIFA, perché la FIFA ha fatto saltuariamente delle dichiarazioni, ma sono sembrate più dichiarazioni destinate a tacitare le proteste o a rispondere in maniera così superficiale alle sollecitazioni di Amnesty International. Non c'è un'agenda oggi di fatto nelle mani della FIFA per risolvere il problema dei lavoratori migranti in Qatar. Devo dire che il futuro non ci rende ottimisti, perché se pensiamo all'attuale situazione di crisi della FIFA, al fatto che il candidato più forte oggi è lo sceicco presidente della federazione calcistica del Bahrain, che è un alleato di ferro ovviamente del Qatar e che condivide col Qatar una pessima situazione dei diritti umani, io dubito che il tema del rispetto dei diritti umani sarà al centro dei lavori della FIFA nel 2016 e a seguire. Ma come state lavorando per cambiare questo stato di cose? E facciamo pressione sulle autorità del Qatar in primo luogo, con gli appelli, con la sensibilizzazione, con il lavoro dell'informazione, rendendo pubblici i nostri rapporti. Poi abbiamo sicuramente l'esigenza di fare di più nei confronti della FIFA, perché alla fine è la FIFA che deve dare al Qatar un monito, a un certo punto dovrà darlo, un ultimatum, cioè questi mondiali devono essere fatti nel rispetto dei diritti umani. E immagino che via via che il rischio di fare mondiali basati sul lavoro sotto forma di schiavitù aumenta e diventerà un elemento certo, noi dovremo allargare le preoccupazioni, penso anche a un lavoro che verrà fatto se necessario sulle federazioni dei paesi che parteciperanno alla fase finale dei mondiali. Mi confessi, dottor Nuri, sapendo quello che c'è dietro, riesce ancora ad appassionarsi al calcio di oggi? È tifoso? Sì, io ce la faccio, sono un grande tifoso, tra l'altro penso che ci siano delle persone che nel passato, anche nel presente, voglio dire da Cantona, Pjanic, Thuram, altri ancora che insomma hanno dato, Tommasi che adesso è un dirigente, insomma, che hanno dato un esempio importante di come il calcio possa essere uno strumento anche di promozione di valori importanti, non solo sulla carta ma nella pratica. E speriamo che qualcuno ci dia retta in questo caso e che non prevalga invece l'esigenza di giocare così, tenendo gli occhi aperti su quello che accade nel campo, ma ignorando su di cosa sono stati fatti e come sono stati fatti gli spalti con i tifosi intorno. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, buongiorno. Per fortuna, e malgrado tutto quello che abbiamo detto, il Qatar è anche sana passione per il calcio. Pochi istanti e la scopriremo insieme, ancora qui a Olimpia. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. Polemiche, calendari stravolti, inchieste, diritti umani violati. Per fortuna però il Qatar è anche sana passione per il calcio, accesa proprio dall'assegnazione dei mondiali del 2022. Fulcro del movimento la potente famiglia Altani, proprietaria anche e soprattutto del Paris Saint-Germain e che è il motore primo del movimento calcistico locale. Gran parte delle squadre iscritte al campionato appartengono alla capitale Doha, mentre le altre sono ripartite nelle città di Al Rayyan e Al Bakra. Fino al 2009 la Qatar Stars League non prevedeva retrocessioni o promozioni, del numero delle squadre era fissato a 12 per la prima divisione e 6 per la seconda. A partire dal 2013-14 la Lega ha aumentato a 14 il numero delle squadre ammesse in prima divisione. Una di queste, l'Al Arabi, è da luglio scorso allenata da Gianfranco Zola, l'indimenticabile campione di Cagliari, Napoli, Parma e Nazionale, coadiuvato da Pierluigi Casiraghi. Una scelta professionale ma anche di vita, come ha spiegato il manager di Zola Vincenzo Marrucco. Il Qatar, come tanti altri paesi dell'est, è molto più vicino di quanto noi possiamo pensare oggi al calcio europeo. Si preparano per un mondiale, quindi c'è volontà di crescita, c'è volontà di portare dei grossi campioni in questi campionati. A partire dal 2003 poi la Federazione Qatariota, per alzare il livello del campionato, ha deciso di assegnare ad ogni squadra iscritta al campionato una somma di 10 milioni di dollari per acquistare giocatori stranieri da campionati di primo piano. Proprio grazie a questa norma, già a partire dal 2003-2004 è iniziato un vero e proprio esodo di stelle europee in terra qatariota, spesso a fine carriera. I primi giocatori a fare da apripista sono stati Caniggia, l'ex attaccante di Atalanta e Roma, approdato al Qatar Sport Club, poi Fernando Hierro, il leggendario capitano del Real Madrid dei Galacticos, sbarcato all'Al Rayyan, e Taribo West, Stefan Effenberg, Pep Guardiola. Una tendenza che continua anche oggi, ma che ora è stata regolamentata proprio in vista dell'obiettivo di avere una nazionale competitiva per il 2022, sottolinea ancora Marrucco in questa testimonianza. Per ora lì non puoi portare più di 4 giocatori stranieri, di cui uno con un passaporto asiatico, e di conseguenza i posti erano tutti occupati e di conseguenza non si è potuto assolutamente portare. Vediamo l'anno prossimo, vediamo come va questo campionato. Lui deve rilanciare questa squadra, che è una squadra che ha una storia in Qatar ma che ultimamente non ha brillato. L'anno prossimo ne parleremo. Ma come si lavora in Qatar? Lo ha raccontato lo stesso Zola, nel frattempo salito al secondo posto in campionato col suo Al Arabi, in una recente testimonianza a Radio Anch'io lo Sport. È una società fino adesso ci sta mettendo in buone condizioni per lavorare e devo dire che il lavoro è interessante, molto, siamo tutti molto contenti. Il calcio qua nel Golfo è adorato, è veramente... Io non mi aspettavo che ci fosse un attaccamento così, ma è veramente estremamente popolare. Il Qatar è un paese piccolo, tutte le squadre sono quasi, o perlomeno il 90% delle squadre sono a Doha, è chiaro che è un paese molto ricco con tante cose da fare, quindi la presenza agli stadi non è come quella magari dei paesi europei, però la seguono, soprattutto qua i regnanti sono amanti, fanatici del calcio, quindi ecco, voglio dire, c'è tanta attenzione e tanti investimenti. E che mondiale sarà, sempre che le inchieste in corso non stravolgano quanto già previsto, quello di Qatar 2022 sotto il profilo prettamente calcistico? Zola non ha dubbi, prepariamoci ad una grande festa del calcio. Il Qatar da solo può, con le sue riserve di gas, può sostenere metà mondo. Da un'idea di quelle che sono le risorse e le potenzialità di questo paese. La famiglia Altani, quindi tutti i vari sceicchi a partire dall'emiro, l'emiro Sheikh Tamim, sono pazzi di calcio. amano, lo amano in maniera incredibile e hanno, stanno costruendo e hanno già costruito delle strutture calcistiche fantastiche. Io non, onestamente non mi aspettavo di trovare una cosa del genere, ma parliamo di livelli di altissimo livello che molti si sognano, quindi questa è l'altra ragione. E la niente, quindi il resto è tutta una conseguenza. Qua la nazionale catarina sta crescendo, anche perché hanno diversi progetti nel mondo dove stanno crescendo giocatori che poi magari vengono a giocare in Qatar da giovani e prenderanno la nazionalità. Quindi la nazionale catarina sarà competitiva e il mondiale non ho nessun dubbio che sarà un mondiale fantastico. L'ultimo minuto della puntata di oggi lo dedichiamo proprio ad Olimpia, perché Olimpia avrà l'onore di rappresentare Radio 24 nella finalissima degli Sports Media Pearl Awards, che si svolgerà martedì prossimo ad Abu Dhabi. Di fatto gli Oscar del giornalismo sportivo mondiale 2015, in cui Olimpia, con una puntata dedicata a Rocky Marciano, è tra le finaliste nella categoria audio. Beh, come andrà a finire ha poca importanza, già questo è uno straordinario successo di cui voglio ringraziare tutti i colleghi di Radio 24 e tutti i tecnici, a partire da Valeria Bernardi che ha curato la regia di questa puntata, e soprattutto l'indimenticabile Fabio Cantadori, con cui avevamo proprio costruito insieme e lavorato a quel reportage su Rocky Marciano che ci ha permesso di conseguire questo grandissimo risultato. Per oggi è davvero tutto, ancora una buona serata da Dario Ricci. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.